Grazie, grazie per essere qui. Vabbè, chi ha avuto la pazienza di essere qui anche due ore fa, insomma, si sarà stufato sentendo la mia voce mentre presentavamo qualcos'altro. Io sono Michele Marziani, di mestiere faccio lo scrittore, di fianco a me ho Stefano Rossini, che di mestiere fa anche lui lo scrittore, il giornalista, fa l'intellettuale. Cosa c'è scritto sulla tua carta d'identità? Letterato. Fa letterato, questa cosa è bellissima. Noi abbiamo girato insieme e questo è il motivo per cui siamo qui, abbiamo fatto questo lungo viaggio lungo il fiume Po, e quando le volte che invece di dormire in barca siamo andati a dormire in qualche albergo, c'era questa carta d'identità di Stefano bellissima dove c'è scritto professione letterato, che è meraviglioso. Me l'hanno fatto scrivere. E poi abbiamo con noi Alessio Alberici, che invece fa il produttore di vino, è il figlio di Amilcar Alberici, che è un grande produttore di Lambrusco e soprattutto di Lambrusco mescolato all'uva Fogarina, che è quella della famosa canzoncina, no? Dice, oh quanto è bella l'uva Fogarina. L'uva Fogarina esiste e esiste nel Reggiano, nella zona di Reggio Emilia che è al confine tra la foce dell'Enza e il Po, ed è una delle zone che noi abbiamo attraversato. Allora, dietro di noi scorrono, immagino, delle immagini, delle foto che ha fatto Stefano Rossini. Noi siamo qui per raccontare un viaggio che abbiamo fatto a maggio di quest'anno, che abbiamo già presentato alla Biennale di Venezia all'interno dei 100 giorni dedicati a Joseph Beuys, e che è stato un viaggio alla scoperta di quello che è rimasto della cultura fluviale, di quello che è il più grande fiume italiano. Allora, siccome sia io che Stefano siamo tutto sommato due persone che hanno un curriculum assolutamente borghese, cioè nel senso che abbiamo fatto il liceo, abbiamo fatto studi normali, non abbiamo mai viaggiato lungo un fiume, allora per noi il Po era questa cosa che normalmente viene raccontata a tutti, no? Cioè era questa cosa raccontata nei libri, il mulino del Po di Bacchelli, gli scritti di Zavattini, le stesse le puntate televisive di Viaggio lungo il Po di Mario Soldati, i libri di Guareschi, insomma c'era tutto un Po' letterario che in qualche modo viene oggi amplificato, come dire, da un certo modo di immaginare il turismo, che è quello di ti racconto una favola, ti butto in mezzo alla favola, se poi questa favola è un cesso lo stesso, perché io comunque te l'ho raccontata e tu dovevi credere alla favola. Un nome questa cosa che si chiama marketing, non so bene che cosa, che è terrificante. E noi siamo caduti dentro questa trappola. Cioè, nel senso, noi abbiamo detto, bene, andiamo alla scoperta di questo fiume narrato dai grandi scrittori italiani, andiamo alla scoperta dei sapori del Po, andiamo alla scoperta dei vini che ancora si fanno nelle sabbie a ridosso delle dune, eccetera eccetera eccetera. Lo facciamo con una barca perché esistono la regione Lombardia, la regione Veneto, che danno in giro delle meravigliose carte fluviali che dicono, guardate, anche i bambini possono navigare lungo il Po perché il Po è attrezzato per il turismo fluviale. Ecco, non ci ha fatto né caldo né freddo pensare che quelli che invece si erano organizzati in passato ed erano aziende che organizzavano il turismo fluviale se ne sono andati via e hanno organizzato le stesse cose sul Danubio. Noi abbiamo detto no, noi risaliamo il Po, che era un'area che in realtà sia io che Stefano conosciamo bene. Io è un'area che veramente ho attraversato, quella del Delta a salire fino a Cremona in tutti i modi possibili e immaginabili, insomma dalla bicicletta al treno all'automobile. Ci mancava solo la barca, cioè il mondo questo mondo visto da dentro. Allora, visto da dentro, noi abbiamo scoperto un altro mondo. Tant'è che siamo rimasti stupiti, perché la prima cosa dici stupore, cioè noi partiamo con una barca, risaliamo il più grande e importante fiume italiano e immaginiamo innanzitutto una cultura fluviale, una cultura fatta di persone, cioè ci sono delle persone che vivono lungo il fiume. Allora, questa è la prima grande bugia, non c'è nessuno lungo il fiume. Cioè, noi abbiamo passato giornate di navigazione, cioè una in particolare che ricorderò sempre, da Castelmassa ad Ostiglia, cioè quindi dalla provincia di Rovigo fino alla Lombardia, dove lungo il fiume, allora dentro al fiume non c'era nessuno, ma nessuno, una barchina, un pescatore, un cacciatore di frodo, un disgraziato che voleva girare con la canna, nessuno. E lungo le sponde non c'era nessuno. E gli insediamenti che c'erano erano degli insediamenti cadenti. Cioè, se vi capitasse mai di prendere una barca di qualunque tipo e risalire o discendere il Po, voi troverete un sacco di attracchi dove c'è scritto con quali soldi la comunità europea sono stati finanziati. E basta, c'è un cartello, dice qui, questo attracco è stato finanziato con X soldi, per cui abbiamo fatto questo attracco dove voi attraccate a vostro rischio e pericolo, vi verranno a sbattere le barche che non vedono i segnali. In realtà non riuscite ad attraccare perché metà dell'attracco è caduto, è andato a pezzi nel frattempo dopo che è stato costruito. A nessuno interessa nulla la benzina. La benzina, cioè noi avevamo una barchetta che si vedrà in diverse delle immagini qui dietro le spalle, che quindi io non vedo, avevamo una barchettina di 5,90 m che ci è stata messa a disposizione da un'associazione culturale di Pizzighettone, che è un paese simpaticissimo sull'Adda, l'associazione culturale si chiama Associazione Culturale Random, loro ci hanno prestato questa barca di 5,90 m con il quale noi andavamo, risalivamo dopo che ce l'avevamo portata giù, risalivamo il Po scoprendo cose tipo dove si trova la benzina. Lì ci sono queste carte, appunto, fatte dalle regioni, fatte dagli enti di promozione turistica, che dicono tu arrivi nel paese tal d'Italia e c'è il distributore di benzina. Non è vero. Cioè, se vi capitasse mai di viaggiare lungo il Po a motore, scoprirete che non è vero, che è una rappresentazione, lì non c'è un distributore di benzina, se c'è apre alle 5, perché nel porto di Boretto a Reggio Emilia c'è il distributore di benzina, però apre alle 5 e chiude alle 6, cioè per cui se voi arrivate alle 10 della mattina avete due possibilità, o scaricate come noi abbiamo sempre fatto le taniche, prendete le biciclette, noi avevamo le biciclette sulla barca, e andate con taniche e biciclette in un distributore di benzina automatico e mettete la benzina, oppure dalle 10 alle 5 del pomeriggio aspettate che venga l'omino a fare benzina in quell'ora in cui è aperto. Questo fa parte di un mondo che secondo me nella testa di tutti noi è fatto in un modo, ma nella realtà è fatto in un altro, perché nella stessa scoperta dei sapori, no? I sapori del Po, cioè noi volevamo scoprire qual è la cucina tipica, la cucina tradizionale, che si cucina lungo il fiume, no? Allora noi finiamo in posti di persone onestissime che mettono in scena delle rappresentazioni, dice ah, le nostre anguille, i nostri pesci gatto fritti, i nostri pesciolini meravigliosi, le rane come una volta, e dice ah, dice, ma le rane da dove vengono? Allora, quello che te le fa venire da più vicino le fa venire dalla Turchia, ma è veramente quello che le fa venire da più vicino, perché un altro le fa venire dalla Cina, un altro non lo so, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo ha aperto per noi un ragionamento molto grande riguardo alla tradizione, cioè la tradizione è quella di qualcosa che a me piaceva e quindi nel mio immaginario rimane quello che devo cucinare anche a costo di farlo arrivare da un altro mondo, o la tradizione ad esempio è quella che si costruisce oggi perché nei canneti io vado a prendere i germogli di bambù perché sono cinese e a me interessano molto, mentre una volta non interessavano assolutamente a nessuna delle popolazioni vivievasche. Questo è il primo grande punto interrogativo che noi abbiamo posto in questo mondo Noi siamo arrivati il primo giorno, dopo lascio la parola a Stefano perché è un punto di vista. Ecco, noi tutto questo viaggio l'abbiamo raccontato giorno per giorno attraverso due blog, il mio e il suo, dove ognuno di noi a mezzanotte, alle 11, all'una di notte, stravoltissimo, scriveva ignavo di quello che scriveva l'altro, che è stato infatti... Più di una volta parlando di questa cosa mi hanno detto ma voi come vi siete coordinati per raccontare questa cosa? Dice noi coordinati, noi eravamo lì con il nostro computerino, ognuno raccontava una cosa, poi svenivamo dal sonno e aspettavamo il giorno dopo. Però l'impatto con questo po' che non era letterario è avvenuto il giorno che noi abbiamo, io ho portato le biciclette che noi avremmo utilizzato nella stazione di Sermide perché mi serviva che fossero lì e stessero lì un giorno, poi saremmo tornati a prendere, avremmo caricato sulla barca eccetera. Allora arrivando in questa stazioncina di questo luogo desolato, dimenticato da tutti, uno pensa una stazione di un posto dimenticato da Dio e dagli uomini, lascia la bicicletta, due catene perché insomma non vuole essere proprio malfidente e passa domani a riprendere le biciclette. Viene fuori l'omino del bar e dice ma cosa fa? Lascia la bicicletta qui davanti alla stazione. Ha detto sì. Dice, ma se lei fra due ore non trova più neanche la catena. Ha detto come fra due ore non trovo più neanche la catena? No? Sì sì, perché dice perché qua rubano tutto. Ha detto come chi a Sermide? No? Dice probabilmente non ci abita nessuno. Chi a Sermide ruba tutto. E allora questo dice sì. Perché sa, questo è il momento in cui comincia la stagione della raccolta del melone. Allora sa, per raccogliere i meloni ci sono, vengono tutti questi extracomunitari da tutto il mondo. Colpa nostra, i nostri figli li abbiamo fatti studiare da ingegneri e da architetti e quindi non raccolgono più i meloni e quindi vengono questi. Ma questi sono a piedi! E quindi quando vedono una bicicletta la rubano, no? E tu ascolti questo che fa questo discorso terrificante, che probabilmente è vero, perché è vero dentro una realtà che noi abbiamo scoperto, soprattutto nel Basso Fiume, è una realtà stranissima. Non so se voi avete visto il film 100 chiodi di Olmi, dove si raccontano di questi amici del Po, che sono anche molto solidali tra loro, cioè di questi vecchietti. Allora, noi abbiamo capito che c'è una guerra in corso lungo le rive del Po, invece arrivando a Ponte Lagoscuro, alla società canottieri. Allora, i canottieri di Ponte Lagoscuro hanno una media di 80 anni, sono dei signori gentili a rate, perché noi abbiamo attraccato, abbiamo cercato il meccanico che ci ha detto «Ah, ma io non riparo i fuoribordo». Mi ha detto sì, però noi abbiamo il problema che non esce l'acqua di raffreddamento, non lo faccio. Dopo 5 minuti è venuto lì a vedere chi eravamo, che barca avevamo eccetera eccetera, dice ma forse dovreste passare con un filo di ferro dentro al coso. Dice lei ha il filo di ferro? No, non ce l'ho il filo di ferro. Dopo 5 minuti torna con il filo di ferro e ci dice come fare, noi mettiamo a posto il motore, diciamo può lasciarci il filo di ferro? No, non posso, ho solo questo. Dopo 5 minuti ritorna e ci regala il filo di ferro, perché esiste questa diffidenza terribile verso tutti quelli che vengono da altri contesti. Però noi siamo italiani. Allora, alla società canottieri Ponte Lagoscuro, dove voi potete mangiare lo stufato di somarina che è buonissimo con la polenta, eccetera, eccetera, eccetera, voi uscite dalla società canottieri, che è un angolo chiuso di mondo, e trovate un cartello enorme con sopra disegnato una pistola e sopra scritto sorveglianza notturna armata. Dice, contro chi? Contro questo mondo che si sta appropriando di paesi che sono stati abbandonati da tutti, per cui scopri che in realtà questa difesa identitaria dei luoghi, che è una cosa da fortezza del deserto dei Tartari, è una cosa verso un mondo che non si conosce e che giustamente, cioè noi siamo finiti in un paesino che si chiama Villanova Marchesana, che sembrava un film di Sergio Leone, avete presente i western, dove voi arrivate nei paesi abbandonati da tutti, perché c'erano i cattivi e quindi bisognava scappare. Noi siamo arrivati in questa cosa, c'erano i negozi chiusi con le travi di traverso attaccate con i chiodi, no? Che i cespugli che rotolavano proprio come nei film di Sergio Leone. E non è una battuta, tra l'altro. No, no, è vero, è una roba pazzesca. A un certo punto troviamo un capannello di quattro vecchietti, no? Che dice, ah, esiste un mondo in questo... E stavo loco. E questi stavano fuori dal bar, perché? Perché dentro al bar non si sta... Perché non si va dentro al bar? Perché il bar ha queste luci blu soffuse, strane, un po' da Cotton Club. Dice, che cos'è? No, perché il bar, che è l'unica cosa aperta di questo paese chiuso, è stato comprato dai cinesi, quindi la barista è cinese e questi vanno dentro a comprare il Campari, però escono e se lo bevono fuori, no? Perché non sta bene. Questa è una delle grandi cose, delle grandi contraddizioni che vivono in quest'area, che è stata, cioè è una cosa nell'immaginario. Voi immaginate solo questa sega disumana della Padania, no? La Padania nasce dal Po, ecco. Ed è una cosa invece dimenticata assolutamente da tutti, o sbaglio?